È risaputo che la Bibbia contiene vari generi letterali, drammi, saggi filosofici, leggi, proverbi, discorsi, lettere e visioni apocalittiche. Questo fa la ricchezza della Bibbia. Vi è anche un genere letterario molto comune che determina notevolmente la nostra comprensione della parola di Dio. Ed è la metafora. Per metafora noi intendiamo ogni tipo di linguaggio figurato usato per esprimere una realtà concreta. Se parliamo delle gambe di un tavolo, ci riferiamo a quella parte del tavolo che lo sostiene. Se parliamo del braccio di una lampadina, ci riferiamo ad una sporgenza solida alla quale è attaccata la lampadina. Il linguaggio è figurato perché il tavolo non ha delle gambe come un uomo. E la lampadina non ha un braccio come gli esseri umani, ma comunque la similitudine, o metafora, si riferisce ad una realtà concreta. Se non ci fosse una realtà concreta non si potrebbero usare le metafore. Noi parliamo del ruggire del motore, perché questo fa rumore, ma nessuno può parlare di un ruggire del cimitero, perché in quel luogo regna il silenzio. Così la metafora deve essere intesa come figura di una realtà contenente in sé un significato reale o letterale. Le gambe del tavolo non sono come le gambe della razza umana, ma comunque esse sostengono il tavolo come le gambe degli uomini sostengono il corpo umano. Perciò, anche se la metafora non può essere presa alla lettera, essa ha un significato letterale. Se non ha nessun significato letterale, cessa di essere una metafora. Purtroppo della parola metafora si fa un uso indiscriminato e strumentale, soprattutto nell'interpretare la parola di Dio. Quando Gesù disse di essere una porta o una vite, è evidente che parlava in metafora, ma il drammatico e letale pericolo è ritenere queste metafore senza alcun senso letterale. Se Gesù non è letteralmente una porta, non ha senso la metafora, perché questa, per essere tale, deve rifarsi alla realtà. Gesù non è certamente un uscio di legno che dia accesso da un vano ad un altro, o un genere di pianta che produce dei frutti, ma è sicuramente colui attraverso il quale dalla situazione di perdizione si ha accesso alla salvezza, e colui che produce i frutti di opere buone in chi ha posto fede in lui. Perciò chi sostiene che un discorso è metaforico intendendo con questo termine che non è reale, deve rivedere il suo punto di vista. Se non lo fa, è indotto a trovarsi in grosse difficoltà nell'interpretare la parola di Dio e capire il linguaggio sia umano sia divino. Leggevo la seguente opinione in merito alla metafora. Dire Dio è madre non significa definire Dio quale madre, né affermare l'identità tra i termini Dio e madre, ma suggerisce che ci figuriamo quello di cui non sappiamo parlare riguardo a Dio. La teologia metaforica è perciò destabilizzante, dato che nessun linguaggio su Dio è adeguato e ogni linguaggio è improprio meno. Sally McFaig, Modelli di Dio, ed Claudiana, Torino 1998. Nulla di nuovo perché il pensiero dell'autore è quello dei più. Però, se dire Dio è madre, non significa definire Dio quale madre, né affermare l'identità tra i termini Dio e madre. Questo deve valere anche per quando si dice che Dio è nostro Padre. Gesù ha detto chiaramente di chiamare Dio nostro Padre nella preghiera, modello chiamata Padre nostro. Se la metafora di Dio madre è destabilizzante, dato che nessun linguaggio su Dio è adeguato e ogni linguaggio è improprio, allora è improprio anche chiamare Dio nostro Padre. E se è improprio, Gesù ci ha insegnato di chiamare Dio con un nome che non serve ad affermare l'identità di Dio quale nostro Padre. Così, se Dio non è nostra madre, non è neppure nostro Padre. Se ci incamminiamo su questa strada, come abbiamo detto, corriamo il tremendo e fatale pericolo di non cogliere nessun senso nelle parole della Scrittura. Se poi si è più propensi di chiamare Dio nostro Padre perché è più consone alla nostra logica o cultura, allora si può anche rivedere la nostra interpretazione e cultura. Qualcuno potrà pensare che è giusto chiamare Dio nostro Padre perché lo ha detto Gesù, ma la Scrittura ci presenta Dio anche come una madre. Come una madre consola il proprio figlio, così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme. Isaia 66.1.3. Si può discutere sul termine come, che non vuole dire che lo sia, ma se Dio non è anche madre, non può neppure consolare come una madre. Vi è ancora di più. In tutto il Nuovo Testamento viene affermato categoricamente che gli uomini devono sperimentare una nuova nascita, espressione questa usata da Gesù quando si rivolse a Nicodemo. Lo stesso Nicodemo non ebbe dubbi sul significato di questa espressione perché chiese com'era possibile ad un uomo entrare di nuovo nel grembo di sua madre e nascere. Perciò nascere di nuovo è un'espressione attribuibile solo all'azione di una creatura al femminile. Su questo non ci piove. E fuor di dubbio che la nuova nascita è un'opera esclusiva di Dio, così egli è colui che rigenera l'uomo mediante un seme incorruttibile, 1 Pietro 1.2-3, e lo fa nascere di nuovo mediante lo Spirito Santo, Giovanni 3.5. Hai dimenticato la roccia che ti ha partorito e trascuri Dio che ti ha generato. Deuteronomio 32.8. Se rigenerare e nascere di nuovo sono espressioni metaforiche senza alcun senso, le parole di Gesù e tutta la scrittura non hanno nulla di comunicarci. Se invece il significato è letterale, allora comprendiamo il messaggio di Dio. Dio è tanto padre quanto madre. Non a caso nel periodico Riforma troviamo questa preghiera: O Dio, che sei nostra madre e nostro padre, ci affidiamo unicamente al tuo amore, amore di madre accogliente e di padre generoso, 24 luglio 2009. Ho il terribile dubbio che riteniamo la parola di Dio, cioè la Bibbia, un libro che si esprime principalmente in metafora. Un dubbio, del resto, lecito e verificato, perché per molti anche i primi capitoli della Bibbia non sono da prendere alla lettera ma in senso metaforico. Così per questi, la descrizione della creazione dell'universo non è da prendere in senso letterale. La creazione di Adamo ed Eva, la loro disubbidienza, sono descrizioni poetiche e simboliche. Non parliamo poi del profeta Giona che vive 3 giorni nella pancia di un pesce o del sole che si ferma quasi un giorno sullo stesso punto del cielo. Descrizioni, queste, che secondo l'opinione di molti non sono assolutamente da prendere alla lettera. Vi è però un episodio nella Bibbia che dovrebbe togliere ogni dubbio riguardo a se ciò che leggiamo nella parola di Dio deve essere preso alla lettera oppure no. Mi riferisco a Mosè quando ricevette da parte dell'Eterno l'ordine di costruire un tabernacolo, un candelabro, l'arca, il propiziatorio, l'altare degli olocausti e altre cose relative al culto ebraico. Ciò che non deve sfuggire è che Mosè non costruì nulla di fantasia propria, ma eseguì ogni opera, secondo un modello che aveva visto in cielo. In effetti troviamo questo ordine da parte dell'Eterno. E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Esodo 25.40. Nel libro dei Numeri troviamo questa conferma. Ora il candelabro era fatto così, era d'oro battuto. Dal suo fusto ai suoi fiori era lavorato a martello. Mosè aveva fatto il candelabro secondo il modello che l'Eterno gli aveva mostrato. Numeri 8.4. Anche se per alcuni è sfuggito il fatto che Mosè fece ogni cosa secondo il modello mostrato da Dio, l'autore della lettera agli Ebrei vede in questo particolare il punto centrale dell'opera di Cristo. Ecco il suo commento. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande, che si è posto a sedere alla destra del trono della Maestà nei cieli, ministro del santuario del vero tabernacolo, che ha eretto il Signore e non un uomo. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, per cui è necessario che anche costui abbia qualche cosa da offrire. Ora, se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, perché vi sono già i sacerdoti che offrono i doni secondo la legge, i quali servono di esempio ed ombra delle cose celesti, come fu detto da Dio a Mosè quando stava per costruire il tabernacolo: guarda, e gli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ebrei 8.15. L'opera di Cristo ha valore solo se egli è un sacerdote ed è entrato dentro ad un vero tempio per offrire il proprio sangue. Ora, è risaputo che Gesù morì su di una croce, ma l'autore della lettera agli Ebrei mette in evidenza che il vero tabernacolo, il vero tempio con i suoi arredi, sono nel cielo dove Cristo è entrato. Perciò, quello che era materiale nel santuario e nel tabernacolo in effetti non era la vera realtà, ma solo un'ombra o un riflesso della realtà che si trovava in cielo. In definitiva, quello che per noi nella nostra esistenza umana è la realtà, non è propriamente la realtà, ma una fotocopia. Una immagine, un riflesso, un'ombra del vero che è celeste. Questo aspetto ribalta completamente la nostra prospettiva e opinione della metafora. Noi siamo propensi a pensare alla metafora come qualcosa che non abbia nessun contenuto morale o letterale, e per questo quando leggiamo eventi storici da noi ritenuti non credibili, come la storia di Giona e la creazione di Adamo ed Eva, subito con fierezza sosteniamo che sono descrizioni metaforiche, ma se teniamo presente che la metafora, il simbolo, l'allegoria, sono un'ombra della realtà, e cioè qualcosa di inferiore alla realtà alla quale si riferisce, allora è necessario fare una inversione di marcia del nostro modo di ragionare. Dobbiamo umilmente ammettere che non è più possibile sostenere che nella Bibbia ci siano espressioni metaforiche, per dire che il testo non è letterale, perché non esiste una metafora che non si riferisca alla realtà o al letterale. Prendiamo un esempio di una promessa rivolta ai credenti. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Salmo 91.4. Per qualcuno non è possibile prendere alla lettera questa promessa, perché con questo atteggiamento dobbiamo concludere che Dio sia un uccello pennuto, ma la metafora del rifugio sotto delle penne è molto inferiore alla realtà di essere sotto la protezione di Dio. Quindi, non si tratta di negare l'esistenza dell'espressione metaforica, ma si tratta di negare che l'espressione metaforica non abbia il suo senso letterale, e di negare che nessun linguaggio su Dio sia adeguato e improprio. Come gli arredi del tabernacolo erano simboli delle realtà celesti, così la metafora è un simbolo al di sotto della realtà vera e propria. Perciò, se le espressioni che Dio è padre e madre fossero anche simboliche, la realtà della paternità e maternità di Dio non è inferiore alla nostra realtà umana. In definitiva, Dio in quanto Trinità è effettivamente sia padre sia madre a tutti gli effetti. Essendo la realtà stessa delle cose, e di questo dovremmo tutti ringraziare Gesù Cristo che ci ha permesso di capire le persone della divinità trina tramite l'ombra della nostra esistenza umana. Proprio perché la metafora è una espressione figurata di una realtà ma inferiore alla realtà stessa, le promesse future di Dio, le descrizioni delle realtà dopo la morte devono essere prese per come sono descritte. Una promessa di Gesù che fa molto discutere è quella rilasciata ai suoi discepoli nel Vangelo di Giovanni. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché, dove sono io, siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Giovanni 14, 1 a 4. Gesù non si è mai limitato nel parlare di Dio e di come saranno le cose in futuro. Ai suoi discepoli e a tutti coloro che pongono fede in Lui ha promesso la vita eterna, un regno. Ha promesso che regneranno se persevereranno fino alla fine. E tutto questo viene accettato dai credenti anche se forse non tutti sono consapevoli di ciò che li aspetta. Per molti credenti il paradiso è un luogo piatto, come un lago a ciel sereno. Vedono un luogo dove solo si adora e si prega. Una visione questa che ha molto di religioso e molto di noioso. Eppure, il futuro dei credenti non sarà piatto. Non saremo tutti uguali perché alcuni saranno chiamati minimi nel regno dei cieli, altri saranno chiamati grandi. Matteo 5,19. Non brilleremo tutti nella stessa maniera, perché come ha scritto Paolo ai Corinzi, altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna ed altro lo splendore delle stelle, perché Una stella differisce da un'altra stella in splendore. Così sarà pure la risurrezione dei morti. 1 Corinzi 15.4041. Inoltre, non avremo tutti lo stesso premio, Romani 8:17, non conosceremo e non serviremo Dio tutti nello stesso modo, perché quelli che saranno vincitori nella grande tribolazione staranno davanti al trono di Dio e lo serviranno per sempre, Apocalisse 7, 13-15. Non tutti occuperemo la stessa posizione, perché solo alcuni siederanno alla destra e alla sinistra di Cristo nella sua gloria, Matteo 20:23. Infine, non tutti noi credenti risorgeremo con la stessa gloria, perché chi avrà dato la sua vita per amore di Cristo avrà una resurrezione migliore, Ebrei 11:35. Perciò, la posizione dei credenti in cielo sarà proporzionata alle vittorie che avranno perseguito qui in terra, a come avranno investito saggiamente la loro vita secondo i propositi eterni. Questa descrizione del cielo è vera e reale, senza nessuna metafora, anche perché se fosse tutto una metafora, come abbiamo considerato, le realtà descritte sarebbero ancora più reali. Vedere il paradiso meno con avosia o il luogo dei salvati e beati meno come un luogo senza diversità o attività è deturpare le promesse di Dio. Le promesse di Dio concernenti le corone che saranno date ai suoi figli non sono simboliche, perché ai guerrieri vittoriosi verrà data la corona della giustizia. 2 Timoteo 4:8. Mentre a quelli che corrono come atleti nello stadio verrà data una corona incorruttibile. 1 Corinzi 9:25-27. Nello stesso modo ai fedeli fino alla morte sarà data la corona della vita. Apocalisse 2:10. Giacomo 1:12. Mentre agli operai disinteressati verrà data la corona d'onore. 1 Tessalonicesi 2:19. Filippesi 4:1. E ai modelli del gregge sarà data la corona della gloria. 1 Pietro 5, 1-4. Se queste promesse fossero metaforiche, non avrebbero nessun significato le diversità delle corone e le stesse promesse. Perciò nel cielo i credenti si distingueranno anche dalle corone, oltre che dai loro nomi. In effetti così leggiamo nel libro dell'Apocalisse. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta, e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Apocalisse 2.17. Dato che il nome per la cultura ebraica esprime una peculiarità della persona, in cielo ognuno avrà un nome che corrisponderà alle caratteristiche spirituali avute sulla terra. Così il paradiso sarà popolato di persone fra le quali ve ne saranno alcune. Impegnate in un servizio particolare per Dio, tutte avranno una gloria diversificata, alcune non avranno premi, altre riceveranno delle corone, e tutte avranno un nome unico che solo chi lo possiede conosce. Questa disparità e diversa situazione spirituale verrà vissuta nel contesto di una città vera e propria. Anche questo aspetto per molti è difficile da comprendere e da accettare. Eppure, la parola di Dio fa riferimenti ad essa molte volte, tante da concludere che è più che mai garantita per i figli di Dio l'esistenza futura in una città e non in una ipotetica ed immensa desolata landa. Ne facendo la lettera agli Ebrei, riferendosi ai patriarchi. Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma, vedutele da lontano, essi ne furono persuasi, e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Ebrei 11.1-16. Dio, dunque, ha preparato per coloro che pongono fede in Lui una città. Abbiamo detto che per metafora noi intendiamo ogni tipo di linguaggio figurato usato per esprimere una realtà concreta. Perciò la città celeste della quale parla Dio è una realtà delle quali le nostre abitazioni sono una figura. O, per esprimersi con concetti odierni, le nostre abitazioni sono la proiezione delle realtà celesti. E assodato che la città celeste non è uguale alle nostre abitazioni, ma è certo che la città di Dio non sia meno città di quanto lo siano le nostre. E all'Apostolo Giovanni è stata data la seguente visione in merito alla città di Dio. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Apocalisse 21.12. Di questa città il discepolo che Gesù amava ne parla spesso perché, oltre ad essere addobbata come una sposa, riceverà il diritto di abitarvi chi avrà vinto 3.12 e savrà 12 fondamenta, 21.14, la sua forma sarà quadrangolare perché sua altezza, larghezza e lunghezza saranno uguali, 21.16, in mezzo alla piazza della città ci sarà l'albero della vita, quell'albero dal quale Adamo ed Eva, dopo la loro disubbidienza, ebbero proibizione di prendere frutto meno. Queste sono le promesse di Dio per i suoi figli, promesse che superano certamente la nostra immaginazione, ma che non abbiamo il diritto di trasformare in metafora, cioè in nulla di consistente. Dare nessun significato a quello che è descritto nella parola di Dio solo perché è fuori dalla portata della nostra comprensione è un errore che costa caro. Non si comprendono i doni che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Si vive da poveri anche se si è ricchi e incombe un giudizio. La parola di Dio lo dice espressamente. E se alcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita, dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Apocalisse 22.19. Togliere le parole del libro non ha solo il significato di escluderle, ma anche quello di non dare loro il giusto valore. Perciò è più che saggio prendere l'avvertimento o minaccia di Dio in considerazione, ma soprattutto prendere sempre le parole di Dio alla lettera. Anche quando il senso è metaforico, dato che non esiste metafora priva di un suo senso letterale. Febbraio 2006. Ellero.